Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata dal vostro gastronauta. Bene, oggi parleremo di un argomento credo che interessi molto, perché parmigiano reggiano, grana padano sicuramente sono due formaggi che entrano quasi in ogni famiglia italiana. Ebbene, cosa succede a questi due formaggi? Nei giorni scorsi abbiamo letto di ritiro di forme di parmigiano e di grana per mantenere il prezzo, e poi si legge che il prezzo di vendita è inferiore ai costi di produzione. Insomma, questi due straordinari prodotti del Made in Italy soffrono della crisi economica generale, oppure c'è una sovrapproduzione, oppure ci sono altre argomentazioni? Bene, lo andremo a scoprire nella prima parte della trasmissione. Ricordo, numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per gli sms, chi volesse intervenire. Ma poi parleremo anche di un altro argomento. Nella seconda parte parleremo di vino, ritorneremo ai ricarichi del vino sul conti dei ristoranti, perché abbiamo ricevuto molte segnalazioni in proposito. Bene, allora io comincerei così a fare una disamina di questo problema che riguarda i formaggi che abbiamo citato, e con un buyer della Coppa Italia dei formaggi, perché magari ci può dare il polso della situazione. Buongiorno a Fabio Ungarelli. Buongiorno. Ungarelli, che succede? C'è un calo di domanda? C'è una sovrapproduzione? O qualche cos'altro che succede nel mercato di questi due straordinari prodotti italiani? Sì, diciamo che come la crisi c'è, evidente e palpabile. Direi che più che un calo di domanda, c'è forse stato negli anni una crescita produttiva non accompagnata appunto da un aumento della domanda. In Italia complessivamente con i quantitativi venduti tengono, non sono in crescita, si tratta di un mercato abbastanza maturo, per cui è già consolidato e quindi non si intravedono, almeno a breve, dei grossi sviluppi. All'estero questo è un punto dolente, nel senso che formaggi così importanti, che sono i principi se non i re della gastronomia nazionale, sono conosciuti un po' ovunque, sia in Europa che nei paesi extraeuropei, ma hanno una vendita piuttosto scarsa. Adesso poi altri rappresentanti dei consorzi saranno sicuramente più precisi su questo, nei numeri. Tendenzialmente comunque mi sembra che non una percentuale inferiore del 10% sia venduta in paesi extra Italia, ecco. E questo è veramente un peccato. Bene, rimanga con noi, io voglio lanciare magari anche così una provocazione ai nostri radioascoltatori per farli intervenire, ma sono troppo cari questi formaggi? È questo che sta succedendo, oppure veramente il portafoglio si è assottigliato? Bene, lanciato questo diciamo questa provocazione per l'800 24 00 24, andiamo da Nicola Cesare Baldrighi, che è presidente del consorzio del Grana Padano. Buongiorno Baldrighi. Buongiorno. Ha sentito un po' le argomentazioni di Ungarelli, un po' anche quello che avevo detto io all'inizio? Sì, le ho seguite. Ecco, lei cosa ne pensa? Beh, guardi, in realtà devo dire che il nostro comparto ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo interessante in termini quantitativi, e le aziende si sono organizzate e sono cresciute. E questo obiettivamente è una situazione dalla quale non ci possiamo nascondere, ed è evidente che quando si forza molto la produzione i riflessi sul prezzo ci sono. Però dall'altro devo anche dire, cosa che peraltro Ungarelli dalla sua autorevolissimo punto di osservazione, che è quello dell'Italia, ha osservato, i consumi ci sono e sono anche consistenti. Ecco, mi è arrivato un sms e mi dice: io preferisco andare direttamente dai produttori, perché se vado alla GDO pago molto di più. Non so appunto cosa significa, è molto vago questo sms. Lei cosa ne pensa, Baldrighi, che la commercializzazione incida moltissimo sul prezzo finale? Beh, certamente tutta una serie di operazioni e di passaggi che portano i prodotti nei punti vendita hanno dei costi, e questo è innegabile. Come hanno dei costi alti anche il servizio che le aziende si sono organizzate ad offrire al consumatore, mettendogli a disposizione il prodotto nelle forme più varie e più facilmente fruibili. Peraltro io non credo che si possa pensare o dire che i nostri prodotti in questo momento devono affrontare delle difficoltà dovute all'elevato prezzo, perché credo che se ci sono dei prodotti venduti a un prezzo economico sono il grana padano e il parmigiano reggiano. Dobbiamo anche considerare il valore intrinseco, certo, del prodotto che noi compriamo. Ecco, abbiamo già un radioascoltatore, Davide dalla provincia di Modena. Buongiorno Davide. Pronto, buongiorno. Mi dica. Allora, io sono un veterinario dalla provincia di Modena, lavoro presso varie aziende che producono latte per la produzione di parmigiano reggiano e niente, vorrei intervenire parlando un attimo del prezzo di questo prodotto, che secondo me è un ottimo prodotto, che però purtroppo, secondo il mio parere, il prezzo viene fatto dalla grande distribuzione, in quanto diciamo le ditte, cioè queste diciamo famosi supermercati vengono c'è solo un acquirente per tutti i gruppi e quindi fanno anche se non è corretto, un monopolio d'acquisto. E bene, guardi, lei è stato chiarissimo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di parmigiano e di grana padano. Sentiamo un altro radioascoltatore, ricordo il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Marco, anche lui dalla provincia di Modena, buongiorno Marco. Sì, salve, io chiamo dalla provincia di Modena, in zona produzione del parmigiano reggiano. Mica. Il problema è che il prezzo di costo è superiore al prezzo di vendita. Qui produciamo troppo parmigiano reggiano, non è possibile che un formaggio come il parmigiano reggiano, che dovrebbe essere come mangiare una ragosta, diciamo, costi come lo stracchino quando lo si va a comprare nel supermercato. Se il consumo è basso bisogna anche abbassare la produzione. Una volta d'inverno non si produceva il parmigiano reggiano, parlo di più di 20 anni fa, venivano ritirate dal consorzio le fasette con cui... E non si faceva, cioè, quindi abbassare la produzione, e il prezzo lo deve imporre il consorzio, non devono essere i grandi gruppi di acquisto che dicono il prezzo è questo, ma fanno questo perché ce n'è troppo e va valorizzato di più. È un peccato perché poi i caseifici sono strangolati, devono chiudere, dopo non c'è più controllo del territorio. Bene, abbiamo Marco, la fermo perché lei ha già posto molti interrogativi, sono ottimi per continuare la discussione. Allora io passo la parola a Fabio Ungarelli per rispondere alla prima questione sull'imposizione dei prezzi dei supermercati, della grande distribuzione, e poi, visto che ci ha raggiunto anche Giuseppe Alai, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per questo secondo interrogativo di Marco dalla provincia di Modena. A lei, Ungarelli. Sì, effettivamente sarebbe un discorso molto lungo da fare, però ovviamente devo cercare... Sì, perché abbiamo i tempi stretti, sì. Allora, spesso si dice che c'è una contrapposizione perdente per i produttori di parmigiano reggiano e grana padano che sono frammentati rispetto alla grande distribuzione che invece tende, ed è vero, ad aggregare sempre più gli acquisti. C'è da dire che però all'interno della grande distribuzione vi sono casi e casi. Io posso parlare per Coop, certo. Per cui per Coop questo è vero fino a un certo punto. Ovviamente Coop è una grandissima catena di mercati, quindi deve confrontarsi con la concorrenza, sarà concorrenza. È molto competitiva sul parmigiano reggiano, anche noi dobbiamo mettere in campo le risorse per rispondere in modo adeguato. Però d'altra parte Coop seleziona le partite e cerca mettere in vendita quello che è l'eccellenza gastronomica all'interno del parmigiano reggiano e anche del grana padano. Faccio un esempio molto semplice: i nostri prodotti a marchio Coop sono prodotti controllati e garantiti, che hanno dei plus in più rispetto a quelli che sono i prodotti più commerciali. Proprio per fare un esempio, il parmigiano reggiano 30 mesi di montagna piuttosto che il parmigiano reggiano biologico e il grana padano GM free. Ma si va di bene che questi prodotti non rappresentano nicchie di mercato, ma sono i prodotti che noi vendiamo di più e noi siamo anche dei buoni venditori. Bene, io la fermo ora Ungarelli e se no passo la parola ad Alai, Giuseppe Alai, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, se risponde al nostro radioascoltatore di Modena. Buongiorno Alai. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Sì, l'arco di Modena ha posto due temi assolutamente importanti. importanti, cioè calare la produzione per cercare di fronteggiare l'abbassarsi dei prezzi che ormai superano i costi, e soprattutto vedere se il consorzio è in grado di imporre. Sapere che il consorzio è un'associazione praticamente a cui si decide di aderire volontariamente, quindi non è in grado di imporre obblighi a nessuno. Per calare la produzione noi abbiamo una normativa, una legge che pianifica la produzione, ma che deve chiaramente fare i conti con quelle che sono le disposizioni dell'antitratte, quindi non è che noi possiamo decidere per conto nostro, imponendolo ai calificici, di calare la produzione. O è una scelta che viene liberamente fatta per ragioni, come dire, naturali, ma non può essere oggetto di un cartello fatto fra i calificici stessi. Per quanto invece la definizione di un prezzo, beh, diciamo che magari c'è possibile farlo, però il consorzio non può commercializzare, può soltanto gestire del prodotto per le promozioni, e di conseguenza anche in questo caso non è il consorzio l'elemento aggregante dei caseifici, ma un'eventuale associazione dei produttori. Resta il fatto comunque che il consorzio viene ritenuto un comune centro di pensiero, di riflessione o di strategie per il futuro, ma oggi un consorzio di tutela non è in grado di fare le cose di cui parlava Marco. Bene, grazie. Sentiamo Vittoria da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Vittoria. Buongiorno. Io per esperienza ho acquistato il parmigiano reggiano in una grossa salumeria gastronomia molto rinomata a Milano, e ho acquistato quello da 5 anni. Allora, l'ho pagato più di 50 euro al chilo. È ottimo, cioè ha un gusto molto diverso da tutti gli altri che può comprare in altri posti, e ha una resa fantastica, nel senso che lei quando lo grattugia ha una resa molto più consistente delle altre. Le altre si disfano, quelli da 2 anni che vendono in giro a 22-23 euro al chilo si disfano, cioè non li trova più dopo. Bene, qual è la domanda, signora? La domanda non è perché in giro ci sono un sacco di parmigiani reggiani che non si riesce a capire perché non ci sono quelli di 3-5 anni. Beh, guardi, io credo che innanzitutto una prima risposta la do io. Cioè, secondo me grattugiare 5 anni, insomma, è un po' un peccato, e quindi credo che sia così. Non è che si possa produrre, questa rispondo così, evito ai nostri ascoltatori, non è che si possa sempre stagionare 3-5 anni. Credo che bisogna un po', per così dire, offrire prodotti al limite, cioè nei contenuti dei disciplinari di produzione, però c'è anche un minimo di stagionatura, quindi non a tutti piacciono i parmigiani o i grana a lunga stagionatura. Bene, sentiamo Massimo da Genova. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire perché io non so se la memoria mi tradisce, ma a me sembra che un periodo come l'ultimo che stiamo trascorrendo abbia una fascia di prezzo molto molto bassa, cioè nel senso, io ricordo come consumatore che anni fa il parmigiano veniva portato in tavola con parsimonia, quasi fosse una pepita d'oro. Adesso io devo dire la verità, sulla mia tavola non manca mai sia grattugiato che mangiato a pezzi, io direi tutti i giorni, però questo grazie anche al fatto che il prezzo in questi anni è disceso, quindi è più contenuto. A me fa piacere, ecco, questo, per cui io direi stiamo attenti a pensare e programmare una ripresa dei prezzi alti come molti anni fa, perché a me dispiacerebbe dovervi rinunciare tutti i giorni, ecco. Bene, come ho fatto adesso. Grazie Massimo. Sentiamo Baldrighe. Baldrighe, le previsioni sono di una ricrescita di prezzi? Ma io credo che noi dobbiamo assolutamente mettere in preventivo che il prezzo si modifichi un po', e che si modifichi soprattutto il prezzo alla produzione, perché come diversi degli intervenuti, degli ascoltatori hanno fatto notare, i nostri prodotti vengono venduti ad un valore decisamente inferiore di altri formaggi che hanno un contenuto di sostanza secca, quindi un valore nutrizionale decisamente inferiore. Io non credo che noi incorreremo nel rischio di un rialzo così significativo da mettere in difficoltà i consumatori, però evidentemente bisogna recuperare un po' di marginalità. Bene, grazie. A lei la domanda. Mi dicono la grande distribuzione propone il 90% prodotto fresco, ma il valore sta nella stagionatura? Nel senso che la stagionatura di 5 anni migliora le condizioni del formaggio, pur portando la vite, nel senso che è un formaggio che è con la tecnica. Purtroppo mi spiace, Alai, ma si sente malissimo, la devo interrompere perché non riusciamo a sentire cosa lei sta dicendo. Mi spiace. Bene, e questa domanda, vabbè, è evidente che la stagionatura è uno dei parametri, ma non solo la stagionatura, il latte soprattutto, la materia prima, credo che sia fondamentale. Ho tantissime domande da fare perché mi sono arrivate da moltissimi radioascoltatori via SMS lo chiedo a questo punto a Ungarelli, la grande distribuzione solamente prodotto fresco mette? No, la distribuzione, diciamo, la grande distribuzione ragione in termini di scala prezzo. Io posso portare sempre esperienza della mia azienda, ovviamente si parla da prodotto fresco, che è un prodotto prevalentemente da tavola, che viene venduto nella linea dei cosiddetti dei primi prezzi, fino ad arrivare a una segmentazione, quella che poi è stata proposta dal consorzio del Parmigiano Reggiano, quindi dai 15-18, 18-22 mesi, oltre 22 mesi, oltre 30 mesi. Noi in questo senso qua abbiamo ampia scelta. Ovviamente, trattandosi di produzioni diverse, di stagionature diverse, hanno costi inferiori, quindi si va di costi differenziati, quindi si va dai 10-12 euro, diciamo, del prodotto a bassa stagionatura, 12-14 mesi per intendersi, fino ad arrivare ai 17-18 euro del Parmigiano Reggiano 30 mesi selezionato da Coop. Bene, io ringrazio Fabio Ungarelli e Nicola Prego. Cesare Baldrighi e Alai che abbiamo perso la telefonata. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare ancora per poco di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano, poi passeremo al vino come abbiamo detto, ma ci abbiamo ancora tantissime domande. Abbiamo moltissime frecciate sia per la grande distribuzione sia per i produttori. C'è chi dice nei consorzi siedono molti imprenditori che poi producono all'estero, mentre per la grande distribuzione si parla che è impossibile riuscire se non con giri strani a mettere il proprio formaggio nella grande distribuzione. Insomma, ce n'è per tutti, ma sentiamo, abbiamo con noi un noto, produttore, negoziante di formaggi di Roma, ma anche produttore di formaggi, fa anche il Casaro perché fa stagione anche dei formaggi, che si chiama Renzo Fantucci della Tradizione. Buongiorno Renzo. Buongiorno Davide. Renzo, ti faccio una domanda secca. Secondo te il calo di domanda del grana e del parmigiano dipende da una qualità inferiore così messa sul mercato negli ultimi anni oppure il prezzo, visto la crisi economica, che è troppo alto per il consumatore? Ma io direi che assolutamente no, per la qualità ci sono le selezioni, no? Che ci sono sempre state, assolutamente. C'è una piccola controtendenza. Personalmente, onestamente, non ne risento più di tanto. Ma per quanto riguarda il prezzo, io direi, vorrei anche spezzare una freccia a favore del parmigiano e del grana padano, che formaggi che arrivano a 2 o 3 anni di stagionatura hanno ancora un rapporto qualità-prezzo, secondo me, ottimo rispetto a tanti altri formaggi che invece sono di una gestione più semplice, più breve, insomma. Ecco. Sentiamo, guarda, abbiamo un radioascoltatore proprio dalla tua città, Luca da Roma. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ospiti. Io volevo soltanto fare una piccolissima provocazione relativamente a un rapporto qualità-prezzo tra formaggi che io considero almeno personalmente nobili come il grana e il parmigiano, che comunque hanno prezzi che con le offerte che si trovano nella grande distribuzione arrivano o superano di poco i 10 euro al chilo, rispetto alla normale caciottina dolce che ormai su un banco di un alimentari non si trova a prezzi inferiori ai 12, 14, anche 15 euro al chilo e che sinceramente come qualità e come valori nutrizionali e come anche metodi di lavorazione secondo me nulla hanno a che vedere con formaggi come il grana e come il parmigiano. Grazie Luca, guardi, giriamo la domanda al nostro Renzo Fantucci. Sì, ma in effetti mi ha confermato anche questa testimonianza, che è un po' quello che dicevo io. Sicuramente il parmigiano reggiano e il grana padano hanno una stagionatura, una gestione più lunga, per cui i costi sono completamente diversi, e poi il ritorno di moneta chiaramente arriva dopo 2 o 3 anni, mentre invece la carciottina, che diceva Luca, dopo pochi giorni, voglio dire, abbiamo già un rientro in cassa dei soldi, per cui secondo me è giusto che sia così, non può essere diminuito un prodotto quando già ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco. Bene, grazie Renzo, grazie della tua testimonianza e a presto. Bene, sentiamo Emilio da Como. Buongiorno Emilio. Buongiorno a tutti. Io volevo così dire fare una piccola testimonianza su quello che riguarda il discorso che ho sentito prima della vendita all'estero. Io da 30 anni mi occupo di pubblicità che dall'Italia parte e va su vari mezzi internazionali. Ricordandomi una trasmissione che avete fatto sul Beaujolais Nouveau, fino sì, criticabilissimo, comunque molto famoso, lei disse: sì, ma quando lanciarono il Beaujolais fecero cose strabilianti, pubblicità, promozioni e tutto. Il problema, secondo me, che abbiamo come prodotto italiano, soprattutto prodotti di alta gamma, se togliamo quei 4-5 nomi delle auto e della moda, è che noi non spendiamo molto, non direi non spendiamo niente, spendiamo troppo poco. Spendiamo poco come aziende, spendiamo poco come comparti, spendiamo poco come enti istituzionali preposti a questo. Chiaro che se io non mi promuovo, la gente non conosce il mio prodotto, non vengo accettato nella distribuzione all'estero, non vengo cercato dai clienti, e questo vale per il vino, vale per il formaggio, vale per bene, la pasta. Grazie Emilio, abbiamo capito perfettamente. Lei dice c'è una carenza di investimenti pubblicitari sul Made in Italy a tavola. Ebbene, questo credo che sia un problema molto serio, sia anche un problema di investimenti e di fondi. Bene, sentiamo Adriano da Treviso. Buongiorno Adriano. Io sono un produttore di latte che va trasformato a grana. In questo momento noi stiamo percependo 32-33 centesimi al litro. Volevo sapere da qualcuno dei là presenti com'è possibile tenere in piedi un settore a 30 centesimi al litro se si vuole distruggere completamente in grana padano. Poi se faremo un grana, faremo qualcos'altro, ma non un grana padano, un parmigiano, se andiamo avanti così. Senta, invece in precedenza quanto veniva pagato il latte? Ma siamo arrivati l'anno scorso anche a 40-41 centesimi al litro. Però c'erano dei costi di produzione che erano molto superiori, e in questo momento si sono un po' ridotti, ma in ogni caso a 30 centesimi, 31-32 che stiamo producendo il latte per fare grana padano, veramente siamo sotto costo. Bene, grazie, interessante questo intervento, e non abbiamo più noi rappresentanti, però credo che sia molto significativo di per sé. Bene, ora parleremo anche di vino, di ricarichi di vino, dopo il latte parliamo di vino. Bene, abbiamo con noi Edi Clementin, che è il direttore generale della cantina Yerma, nota cantina friulana. E allora io la prima domanda, immediatamente inizio diciamo a parlare di ricarichi del vino, voglio chiedere appunto a Clementin se secondo lui la ristorazione e le enoteche in Italia caricano in maniera percentuale giusta il vino, oppure se ci sono differenze significative con quello che succede negli altri paesi del mondo. Buongiorno Clementin. Buongiorno a lei e a tutti gli editori, o meglio gli ascoltatori in onda. Allora, io voglio porre una considerazione. Qual è il giusto rincaro del vino ristorante? Beh, a questo punto bisogna fare alcune premesse. Cercando un po' di estremizzare l'intera filiera e considerando semplicemente l'azienda, il ristorante e il consumatore, vado a analizzare singolarmente i 3 punti. Aziende, ormai ci sono moltissime aziende, moltissimi prodotti offerti, e gli stessi prodotti franco azienda hanno ormai una forbice di prezzo molto elevata. Ristoranti, ci sono molti tipi di ristoranti, location più o meno importanti, possibilità di personale più o meno specializzato, presenza di cantine fornite o meno. Per quanto riguarda il consumatore, al tempo stesso il consumatore oggi è un consumatore molto attento, valuta e soprattutto è a conoscenza di quello che va a scegliere. Porto delle soluzioni, mi spiego, appunto dal punto di vista tecnico l'azienda deve assolutamente produrre delle cose nuove, vedi esempio tappature, formati di bottiglie diverse. I ristoratori da parte loro devono dare dei servizi di flessibilità esempio la possibilità di asportare il vino dal ristorante, o addirittura portarsi delle bottiglie particolari nel ristorante qualora il ristorante stesso ne sia, non ne sia provvisto. Quindi dal punto di così concludendo, il rincaro giusto al ristorante è legato a moltissimi fattori. Vabbè. Non penso sia giusto dare un numero. Abbiamo preciso. Capito. Bene. E sentiamo, abbiamo già dei radioascoltatori. Gianni da Milano, buongiorno Gianni. Buongiorno. Senta, io volevo sapere come si pone in termini di qualità-prezzo il vino prodotto nelle cantine sociali in confronto a quello dei produttori privati. Tenendo presente che mi sembra che nelle cantine sociali si possa comprare solo direttamente e non abbiano una rete di vendita in giro. Comunque. No, chi l'ha detto, scusi? Non so, non mi risulta, ma non è che si possa giudicare il rapporto qualità-prezzo delle vine cantine sociali rispetto alle altre cantine, non credo che si possa fare questo paragone. Io credo che una volta che è imbottigliato, arriva sul tavolo, si giudicherà sulla qualità, si faranno confronti sulla qualità e ovviamente si farà un rapporto col prezzo, ma non credo che ci possa essere una discriminazione comunque su questo. Grazie Gianni. Sentiamo Roberto dalla provincia di Varese. Buongiorno Roberto. Buongiorno Paolini, come va? Bene, grazie. Ci dica. Grazie, complimenti per la trasmissione, sempre molto interessante. Senta, la mia domanda è questa, in merito al discorso del vino. Non più tardi di un mese fa mi sono trovato con degli amici a Busto Arsizio, io abito a Busto Arsizio, per una cena di lavoro. Era il periodo di Natale. Abbiamo ordinato un vino, non so se posso dirlo, vabbè, comunque della, se non ricordo male, della cantina di Appiano, sì. Minar, aromatico, niente di particolare. L'unica sorpresa è che nel momento in cui abbiamo letto la carta dei vini, ho visto che il prezzo era 18 euro, considerando che io il giorno precedente ero stato alla Selunga, l'avevo comprato in offerta a 5 euro e qualcosa. Ora, la domanda che faccio sempre è, ci lamentiamo sempre del costo della vita, dell'eccesso di spesa dei ristoranti, se poi i ristoratori hanno queste politiche, capite bene che guardi, secondo me bisogna fare dei distinguo sicuramente il prezzo, bisogna vedere i supermercati come se lo usano come civetto d'alto, quindi ci sono varie ragioni, però guardi, abbiamo un ristoratore che su questo diciamo che da anni ne mangia di questi argomenti, è Gianfranco Bolognese. Sentiamo cosa ciao, Davide. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Hai sentito il nostro radioascoltatore? Sì, ho sentito, ma sai, quello del problema del ricarico dei vini al ristorante è un po' vecchio, no? Quasi come noi, Davide, ed è giusto che si ripresenti soprattutto in momenti anche difficili. Direi che bisogna fare una distinzione subito fra la tipologia del ristorante, che ovviamente ce ne sono di diversi tipi, e l'impegno che uno mette nella cantina. Cioè una cantina che ha diverse migliaia di bottiglie, una carta dei vini ricca, che offre vini di invecchiati, etichette famose, eccetera, ovviamente ha dei costi molto di più. Alti, ti faccio un esempio, Davide. Mia figlia, sai che ha aperto, dove era la vecchia Frasca, una trattoria molto bella, simpatica, con una scelta solo di vini romagnoli. Al massimo sono presenti 300-400 bottiglie che girano continuamente e il ricarico è al 50%. Cioè un vino che costa 8 lo vende a 12, un vino che costa 10 lo vende a 15. Il discorso cambia con il mio ristorante, la mia cantina e quella di tanti altri. Noi abbiamo in cantina una carta dei vini con 500 etichette, annate sono un miliardo di annate, una cantina con 4.000 bottiglie, è ovvio che il ricarico deve crescere. Mi rendo conto che in momenti come questi bisogna stare coi piedi per terra. È anche vero che c'è anche molta più richiesta di vino al calice e questo bisogna far fronte perché la realtà certo. È questa qui. E quindi io ho nella carta vini, tutti i giorni nella scelta dei menù ho una proposta di 8-10 vini, compreso bollicine, con il vino al calice. Ma questo l'abbiamo sempre fatto. Certo. Sai, non è che l'abbiamo fatto adesso. Bene, rimanete con noi. Sentiamo ancora Franco dalla provincia di Vicenza, poi passeremo la linea alle strade italiane. Franco, buongiorno. Buongiorno. Io sono un produttore, oltre che un appassionato di vino. Sì. E volevo, prima sentivo parlare quello della cantina Yarma, volevo sì. Proprio parlare di una cosa che mi è successa. Io ho comprato poco tempo fa su un ristorante enoteca uno dei suoi vini, uno dei migliori, a 26 euro e ero contento perché era un prezzo molto buono. Poi ho avuto l'occasione di andare a New York per lavoro e mi sono trovato a New York su un ristorante, lo stesso vino, la stessa annata, a 30 dollari. che col cambio l'ho pagato meno di quello che l'ho pagato in Italia. Allora, col trasporto, con l'esportazione e tutto, come fa a costare in un ristorante a New York $30 quando qua lo paghiamo, paghiamo 26? Che... Franco, guardi, ora le faremo rispondere da Clementin, però le posso già rispondere anch'io. Cioè, dipende appunto dal ricarico che fa il ristoratore qua e il ristoratore là, che quindi è tutto da verificare. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, ora stiamo parlando di vino, ma devo dire che sono arrivati tantissimi SMS sul parmigiano reggiano e sul grana padano. Veramente un interesse incredibile su questi due straordinari prodotti del Made in Italy, e quindi magari chissà, ci potremo anche tornare sopra un'altra trasmissione. Clementina, ha sentito allora la domanda del nostro radioascoltatore? Un suo vino, 26 euro in Italia al ristorante, $30 a New York. Sicuramente io posso dire quanto da lei già espresso, cioè troviamo situazioni in cui certi ristoratori operano dei rincari più o meno evidenti. Dal punto di vista nostro aziendale posso dire che il vino che va distribuito in Italia e in America ha un prezzo franco azienda molto molto simile, quindi c'è sicuramente in questa situazione attuale dei problemi commerciali. Questo dimostra che in America al ristoratore. Questo dimostra che negli Stati Uniti i ristoratori caricano di meno dei ristoratori italiani. Bene, la ringrazio, grazie a Eddie Clementin. Sentiamo Alfredo da Campobasso, buongiorno Alfredo. Buongiorno, complimenti alla trasmissione, perdoni la mia voce influenzata. Ma anch'io, guardi. La ragione del mio intervento in pochi secondi è che il cittadino confronta il prezzo del vino offerto alla carta del ristoratore col prezzo che lui vede e che paga o nella grande distribuzione o all'enoteca, ma il ristoratore non acquisisce il prodotto attraverso, generalmente, la mia è una generalizzazione, attraverso la rete delle enoteche o della grande distribuzione, bensì presso i rappresentanti del prodotto specifico o addirittura delle cantine, rispetto ai quali quindi realizza una plusvalenza che è simile, se non superiore, a quella dell'enoteca. Bene. È un piccolo spunto di riflessione. Certo. Grazie Alfredo. Bene, abbiamo con noi Marco Pallanti, che è presidente del Consorzio del Chianti Classico, nonché anche rappresentante di un'altra azienda che è il Castello di Ama, che esporta moltissimo, anche questo marchio esporta moltissimo. Allora chiedo, Marco, secondo te c'è molta differenza di impostazione tra i ristoratori italiani e diciamo altri in giro per il mondo, americani, inglesi, tedeschi, rispetto al ricarico del vino? Beh, ciao Davide. Io penso che ci sia molta differenza, ma contrariamente a quello che ho sentito prima, la differenza è a vantaggio dei ristoratori italiani, cioè all'estero si ricarica molto di più il vino, anche perché ci sono paesi che hanno più passaggi, cioè nel senso, mi spiego meglio, gli Stati Uniti ad esempio hanno bisogno di un importatore e dall'importatore si passa al distributore più delle volte e dal distributore si va all'enoteca o al ristorante. Quindi è chiaro che più aumentano il numero dei passaggi, più aumenta il ricarico e quindi alla fine il prezzo del vino viene completamente modificato rispetto all'origine oppure rispetto allo stesso vino in Italia. Bene, rimani con noi Marco, continueremo a parlare di questo argomento. Ora abbiamo un ristoratore italiano, Andrea Alciati, del Relais di San Maurizio, il ristorante Guido di Costigliole, al quale voglio chiedere, visto che lui ha fatto tantissimi esperimenti sulla carta dei vini, Andrea, c'è un modo, diciamo, come posso dire, similare di ricaricare sui vini, una percentuale, una tecnica, oppure veramente tutto variabile, vino per vino, marca per marca? Ciao Davide, buongiorno a tutti. Guarda, hai fatto intanto una trasmissione stupenda come al solito, è un problema veramente grande, anche perché come diceva giustamente il mio collega bolognesi che saluto, c'è ristorante, quindi diciamo che i prezzi vengono ricaricati in base anche alle spese che uno ha. È chiaro che se io ho una trattoria e compro il vino a 10 euro, la mia casa è la casa di famiglia, un servizio corretto, gentile, ma semplice, oppure ho un grande ristorante con delle spese enormi, è chiaro che devo andare a ricaricare il vino, perché ormai su quello si deve un po' giocare, perché gli altri margini sono tutti un po' pieni, non si può vendere un piatto a 200 euro, e quindi di più rispetto ad altri, e questo è un problema che il cliente finale giustamente può riscontrare. È chiaro che se bevo un vino guardando la Tour Eiffel, guardando Piazza San Marco a Venezia, o lo bevo guardando una parete, questo incide e deve incidere giustamente. Bene, grazie al Ciati per questa risposta. Ora continuiamo, sentiamo Roberto dalla provincia di Chieti. Buongiorno Roberto. Buongiorno, io sono un produttore, sono 27 anni che mi occupo di Montepulciano. Volevo dire questo, in effetti tra i prezzi della produzione, i prezzi al ristorante, il prezzo della bottiglia ci sono differenziazioni molto elevate, cioè dico, non è possibile produrre anche degli ottimi vini in azienda e poi ritrovarli sul ristorante a 20 euro. Noi oggi i prezzi di vino, che il prezzo del vino va dalle 25 centesimi a 80 centesimi al litro in produzione, quindi chiaramente quando ci ritroviamo questi vini a prezzi che superano 10 euro a bottiglia ci sembra un po' strano, ecco, questo volevo dire. Quindi lei sostiene, insomma, che sta parlando di ristoranti locali o sta parlando un po' in giro per l'Italia? In genere. Io mi occupo, ripeto, da 27 anni di questo problema e vendiamo in tutta Italia, quindi... Quindi lei dice un problema generalizzato questo? Un problema generalizzato, cioè il vino che parte alla produzione, un vino come il latte che sentivo prima, che parte a 30 centesimi e a 80, un euro massimo di prodotti di qualità, prodotti di 2 anni invecchiati in botte che poi vengono venduti agli imbottigliatori e che loro rivendono a prezzi adeguati, il problema è che poi alla fine costano molto, cioè noi come produzione siamo un po' a prezzi sotto costo. Bene, grazie Roberto. Io volevo chiedere a Marco Pallanti questo: ti è mai capitato di vedere in una carta dei vini uno dei tuoi vini rimanere sbalordito per il ricarico? sì, qualche volta è successo, cioè sbalordito per il ricarico, sorpreso, diciamo, più che sbalordito. Succede, ma giustamente, come ha detto Alciati, dipende dal luogo dove sei, cioè devi condizionare il prezzo del vino all'ambiente dove ti trovi. È chiaro che se ti viene servito con una tovaglia di lino, con un bicchiere adeguato che costa già il bicchiere 30 o 40 euro da solo, voglio dire, sopporti anche i ricarichi. Cioè, io vorrei un pochino smitizzare questo famoso rapporto qualità-prezzo, cioè il rapporto qualità-prezzo è una cosa molto importante e seria, ma non necessariamente deve essere preso in considerazione sempre al ribasso, cioè non sempre la spesa di 5 euro è più cara rispetto alla spesa di 20, quando la spesa di 5 è una banalità ed è tipo acqua fresca, e la spesa di 20 invece ti può dare un'emozione, insomma. Bene, grazie Marco, volevo solo ricordare che io un paio di anni fa, questo l'ho scritto sul Sole 24 Ore, lo scrissi il nome del ristorante, del vino e tutto, un ricarico del 414%, quindi sì, il locale era bello, però insomma 414% su un vino mi sembra veramente una roba straordinaria. Ma voglio chiedere la stessa cosa a Andrea Alciati, all'incontrario. Andrea, c'è stato mai nessuno che ti ha contestato un vino per un eccessivo, così, un eccessivo prezzo, magari non sapendo quanto lo avevi pagato? Guarda, onestamente non mi è mai successo. Devo anche dire che storicamente, tu lo sai, la mia famiglia è sempre stata molto attenta a questo. Un ricarico del 400%, sono d'accordo con te, non può essere giustificato neanche dal guardare la Tour Eiffel, credo. Certo. Ci devono essere delle regole, delle misure. Detto questo, ti vorrei ancora dire due cose importanti secondo me. Uno, che comunque in ogni caso il cliente deve avere la possibilità di diverse fasce di prezzo. Quindi non capisco certe carte dei vini dove i vini partono da 50 euro in su. Noi abbiamo una carta dei vini con 2400 vini che partono dai 10 euro in carta e vanno fino ai 6000 euro di annate particolari di Romane Conti. Quindi secondo me ci deve essere una vasta gamma dove il cliente non è imbarazzato poi nel dover dire devo per forza spendere un tot a rialzo. Bene Andrea, guarda, io purtroppo ti devo interrompere perché dalla regia mi fanno segno che abbiamo raggiunto il limite. Mi scuso anche con Giorgio dalla provincia di Trento che doveva intervenire, magari lo facciamo intervenire la prossima volta, terremo il numero a disposizione. Bene, anche oggi abbiamo così finito di parlare di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano e di ricarichi sul vino, e adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.